9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori di Radio 24, un buon martedì 19 gennaio da Oscar Giannino nuovamente. Ci occupiamo oggi degli arresti avvenuti ieri, di arresti che oggi rimbalzano trovando spazio sulla stampa quotidiana, malgrado Haiti, malgrado Craxi, la lettera di Napolitano, malgrado il ricordo di Craxi che ci sarà oggi. Perché? Per due fatti che hanno molto attirato la mia attenzione, e per questo ho deciso di chiedere a colleghi di quelli che approfondiscono da anni il filone delle indagini sul terrorismo, la storia di questa componente purtroppo sanguinosa ma essenziale da decenni della storia italiana, che è il terrorismo di matrice interna, quello delle Brigate Rosse, per chiedere a loro e interrogarci insieme a voi su che cosa rappresentano questi nuovi arresti, e per tentare di capire con un po' di attenzione, al di là della enfasi mediatica, quanto e se davvero gli aderenti a questi gruppuscoli, che vengono di volta in volta identificati, intercettati, indagati, come è giusto, da una vigilanza molto penetrante e di cui dobbiamo essere grati delle forze dell'ordine, se davvero queste persone, ciò che si anima nei loro documenti, i loro tentativi, le loro iniziative, le loro intenzioni di reato, fanno davvero parte di una storia, per così dire, continuativa rispetto a quello che tutti siamo abituati a considerare nella nostra storia oramai, quando usiamo il termine Brigate Rosse, associandolo cioè a decenni terribili, da Sossi a sequestro di Moro. E questa domanda è una domanda delicata, perché ha a che vedere con la funzione del nostro mestiere di informazione rispetto a quello che voi giustamente recepite quando vi trovate su un titolo Brigate Rosse, nuove Brigate Rosse. Cerchiamo di capire innanzitutto poche pillole di riepilogo di chi sono i due arrestati ieri. A fare molto rumore è sicuramente Manolo Morlacchi, 39enne, lavorava come dirigente, manager in un'agenzia di gestione archivi, in realtà da molti mesi aveva perso il lavoro, e a fare molto rumore è che Manolo Morlacchi è il figlio di Pierino Morlacchi, un fondatore storico delle Brigate Rosse nella Milano del Giambellino dei primissimi anni 70, insieme a Renato Curcio, Mara Cagol, e appartenente a una famiglia, appunto la famiglia Morlacchi, che ha avuto insieme al padre Pierino fratelli del padre e anche fratelli di Manolo arrestato ieri, tutti quanti coinvolti in vicende delle Brigate Rosse, e naturalmente per parte del padre, che è un fondatore storico nel nucleo storico appunto delle Brigate Rosse. Il padre non commise alcun delitto di sangue, ma finì in carcere anch'essi, ammise che era stato un caso che non avesse commesso delitti di sangue. Il figlio Manolo gli aveva dedicato un libro, La fuga in avanti, un libro molto interessante che a me è capitato di leggere, in cui inevitabilmente si capiva che la storia della famiglia Morlacchi, di Pierino e dei suoi fratelli, era una storia che identifica il filone di nascita, di fondo, cioè quello appunto di Renato Curcio delle Brigate Rosse, cioè un filone che rivendica, vive la propria diretta e immediata continuità con la parte storica del Partito Comunista, dell'organizzazione militare clandestina del Partito Comunista, Secchia per capirci, e che rivendica nei confronti del Partito Comunista degli ultimi anni 60 e poi 70-71 il fatto che si è ammosciato questo PC, che la vecchia tradizione comunista chiede il passaggio alla lotta armata. Quello è sicuramente, nella generazione del padre dell'arrestato di ieri, Manolo Morlacchi, un passaggio che identifica la ragione stessa costitutiva delle Brigate Rosse, delle sue prime sanguinose iniziative nei primi anni 70 tra Milano e Torino nella barriera operaia. Io stesso sono di Torino e purtroppo assisto da giovane a cose di quel genere, coi quadri portati fuori della Fiat e i cartelli appesi e gli operai che non intervengono certo in solidarietà dei quadri. Ma quello è il nucleo storico. Quel libro dedicato da Manolo Morlacchi al padre è la ricostruzione di un terreno fertile, terribilmente fertile, che era l'Italia esplosiva delle contraddizioni in fabbrica negli anni 70, la nascita delle Brigate Rosse. Manolo Morlacchi è stato arrestato ieri insieme a un suo amico Costantino Virgilio. Si tratta di due uomini morlacchi a 39 anni, Costantino Virgilio ne ha pochi di meno, e queste indagini condotte dalla Digos di Milano e di Roma, i provvedimenti sono firmati da magistrati romani, e il provvedimento di arresto è stato emesso ieri dal GIP di Roma Caivano, ed le richieste vengono dal procuratore aggiunto, che è il coordinatore del pool antiterrorismo della procura della capitale, cioè Pietro Seviotti, e si arriva a questi arresti nel prosieguo di indagini relativi ad arresti che sono avvenuti nel giugno di quest'anno, nel giugno del 2009, scusate. E cioè stiamo parlando di un gruppo che da negli ultimi anni è al centro delle indagini dell'antiterrorismo e delle procure italiane, è denominato Brigate Rosse per il Comunismo. Gli arresti di giugno identificano questo gruppo, lo smantellano, è un gruppo guidato, coordinato da un romano che si chiama Luigi Fallico e che ha una sessantina d'anni, da un genovese che si chiama Riccardo Porcillo. Nel giugno del 2009 questi due presunti capi vengono trovati con moltissime armi, due mitragliette, quattro pistole, una bomba a mano, munizioni, cartucce varie, con computer nel cui memoria vengono identificati molti documenti, rispetto ai quali gli inquirenti sono in condizioni di elaborare una specie di mappa incrociata di questa denominazione, alla quale apparterrebbero quindi anche i due arrestati di ieri, Brigate Rosse per il Comunismo, rispetto a invece la formazione alla quale appartengono coloro che 10 anni fa, nel maggio del 1999, 10 anni e mezzo fa, rimettono, per così dire, la sigla Brigate Rosse al centro, drammaticamente, dell'attenzione italiana con l'omicidio di Massimo D'Antona, consulente del ministro del lavoro. Seguirà poi nel marzo 2002 a Bologna l'assassinio di Marco Biagi, l'autore della svolta nel diritto del lavoro italiano con la legge Biagi. Ecco, a compiere quei nuovi delitti, a identificare il filone interno dei giurisperiti del lavoro come l'asse su cui portare i colpi per portare nuovo sostegno alla lotta armata, è una formazione che con questa non c'entra nulla, apparentemente, dagli stessi documenti interni. Quella è il Brigate Rosse, sì, come autodenominazione, ma sono le Brigate Rosse per la costruzione del Partito Comunista Combattente, sono quelle guidate da Nadia Lioce e Mario Galesi. Nel marzo 2003, ricordate, lo scontro a fuoco su un treno in cui i due capi del gruppo avversivo delle BRPCC vengono acchiappati, Galesi viene ucciso, Nadia Lioce viene arrestata, e poi nei mesi successivi si arriva allo smantellamento, anche oltre che all'identificazione e all'arresto dei complici, Roberto Morando, Marco Mezzasalma, Daniela Blefari, che si è non molto tempo fa suicidata in carcere, e altri. Rispetto a questi che sono naturalmente processati, e proprio all'inizio del 2009, alla fine del dibattimento, il PM Bocassini ha chiesto condanne per moltissimi anni di carcere. Arriviamo poi invece agli arresti del giugno del 2009, in cui nuovi arresti tra Roma, Genova e la Sardegna, 5 persone accusate di far parte di una banda armata che prosegue e persegue il programma criminoso delle BRPCC. Anche se, però, a vedere bene, dagli stessi documenti che emergono dai loro computer, parrebbe che le Brigate Rosse PCC, cioè quelle appunto degli assassini di D'Antona e di Marco Biagi, avrebbero escluso nella ricostruzione di quei documenti collegamenti o l'ingresso nelle stesse Brigate Rosse di questo nuovo filone di Brigate Rosse per il Comunismo, al quale apparterrebbero Morlacchi Junior, arrestato ieri, insieme al suo collega Costantino Virgilio. Questa ricostruzione, naturalmente fatta da me, è una ricostruzione approssimativa, e lo ammetto, perché bisogna essere molto specializzati per seguire queste vicende. Dunque, io d'ora in poi sto zitto e faccio solo domande e vi presento colleghi che molto più titolati di me seguono approfonditamente queste vicende. Innanzitutto Gianluigi Nuzzi di Libero. Buongiorno Nuzzi. Buongiorno direttore, buongiorno agli ascoltatori, buongiorno. Poi abbiamo il professor Luigi Manconi, che insegna sociologia dei fenomeni politici alla IULM di Milano e autore di tanti libri di approfondimento sulla storia politica attraversata anche dai fenomeni del terrorismo, come Terroristi Italiani, Le Brigate Rosse e la Guerra Totale 1970-2008. Buongiorno professor Manconi. Buongiorno a tutti voi. E poi abbiamo il collega Daniele Biacchessi, che qui da Radio 24, anche lui è uno di quelli che ci ha dato molto dentro su queste vicende. Grazie a te per essere con noi, Daniele. Buongiorno a te. Allora, io comincerei dal professor Manconi. Professor, ha ascoltato quello che ho detto. La mia domanda, che non intende sottovalutare, per così dire, figuriamoci, io vengo da un'esperienza politica tantissimi anni fa, partito repubblicano, per carità di Dio, eravamo in prima fila contro il terrorismo. Ma detto tutto questo, il Morlacchi Junior arrestato ieri, il suo collega, coloro che sono identificati e acchiappati nel giugno di quest'anno con un arsenale certo potente e così via, dai documenti che scrivono, dalla storia che sembra intrecciarsi rispetto al PCC che non li ha voluti tra i piedi, in realtà sono davvero Brigate Rosse? Ha senso davvero usare questa sigla, oppure questa sigla si usa mettendola sulla testa, accettando l'idea di tutti coloro che se la mettono sulla testa per nobilitare tentativi, certo pericolosi, certo da smantellare, ma che con la storia delle Brigate Rosse non ha molto a che vedere? Perdoni la brutalità della domanda, ma mettiamoci nei panni di chi sta a casa e sa quasi poco, tranne a chiaro che cos'erano quelle Brigate Rosse e cos'erano quelle che hanno ucciso poi D'Antona e Biagi. Lei che pensa? Penso che non esista un'autorità incontestabile e riconosciuta che possa attribuire quell'etichetta, e dunque quanti in qualche misura e in varie forme si ispirano alla storia degli anni 70 del terrorismo italiano sono indotti per tante ragioni a usare quell'etichetta. E la prima di queste ragioni è che quell'etichetta ha tuttora una sua capacità di suggestione. Sia chiaro, capacità di suggestione presso esigue minoranze, però la conserva. Dunque, chi vuole in Italia perseguire il progetto della lotta armata è indotto necessariamente a richiamare il nome della ditta che quella lotta armata meglio ha rappresentato nei decenni scorsi. Quindi un fenomeno di, per così dire, di autoappropriazione di un brand, per così dire, se capisco bene, professore. Assolutamente sì, però tutto ciò, come dire, non pone in discussione anche un elemento di continuità. Io arrivo a dire che c'è una assoluta continuità ideologica tra le Brigate Rosse delle prime manifestazioni, delle origini, dei primissimi anni 70 e le Brigate Rosse che uccidono D'Antona e Biagi. La continuità è stata da lei prima accennata ed è quella determinante, cioè nel corso di quasi 40 anni gruppi armati che si definiscono Brigate Rosse con sigle che poi variano qua e là per il comunismo, per la costruzione del Partito Comunista Combattente, hanno un riferimento. Questo riferimento costituisce l'elemento fondativo, quello al quale non è possibile rinunciare. Il riferimento è la classe operaia, una classe operaia che in 35 anni ha conosciuto trasformazioni radicali, trasformazioni che l'hanno reso qualcosa di enormemente diverso da ciò che era negli anni 70, ma che comunque rappresenta il punto in cui si concentra l'attività terroristica. Negli anni 70 era la classe operaia delle grandi fabbriche, negli anni 2000 è quella classe operaia polverizzata, frantumata, frammentata, dispersa sul territorio, resa precaria, alla quale in maniera davvero testarda tuttora le Brigate Rosse fanno riferimento, al punto che noi possiamo vedere come dai primissimi anni 80 a oggi, pensi che periodo lungo, tutti i bersagli, senza eccezione, tutti i bersagli di individui feriti, messi nel mirino, uccisi, fino all'ultimo attentato che è stato progettato, quello contro Pietro Ichino, avevano come obiettivo persone che indagano, lavorano, progettano a proposito del mercato del lavoro e delle nuove figure di lavoro dipendente. Quindi la classe operaia della Fiat e della Pirelli, che non esiste più, è stata sostituita dal lavoro attuale nelle sue forme diffuse sul territorio, rese interinali, precarie, rese per molti versi invisibili, che rimangono comunque il riferimento. È il nemico e chi a queste figure cerca di dare tutele economiche e tutele in termini di diritti e di protezioni sociali. Gianluigi Nuzzi, proprio il caso vuole che oggi presenterai un libro, oggi pomeriggio alle 6, per chi sta a Milano e fosse interessato, alla libreria Mursia, insieme al GIP di Milano, Guido Salvini, protagonista di molte indagini di prima fila contro il terrorismo, a Gianni Cervetti, che è ex membro della segreteria del PC, e ad altri, proprio un libro dedicato, è un libro sul terrorismo di Antonella Colonna Vilasi. Siccome segui anche tu da anni queste vicende, ti chiedo, leggendo oggi gli articoli dedicati al Morlacchi arrestato ieri, si ha un po' l'idea di uno che in realtà da moltissimi anni era praticamente, si direbbe, attenzionato nel linguaggio da mattinale di polizia. In realtà quando uno scrive un libro come quello, ha una famiglia dietro come quella, si capisce che rivendica una tradizione. Mi chiedo e ti chiedo, è davvero così pericoloso o è semplicemente l'incarnazione di un problema psicanalitico irrisolto, secondo te? Ma io condivido innanzitutto quello che ha detto il professore, innanzitutto, e credo che vada, se mi permetti, fatta una fotografia che, leggendo le cronache di oggi, mi ritorna in testa e non riesco ad allontanare. Io ho portato in Italia qualche anno fa, dalla latitanza sono andato a prenderlo in Francia, non a prenderlo, nel senso a catturarlo, perché fortunatamente faccio il giornalista, Oreste Scalzone. Sì. E ho seguito Oreste Scalzone, questo ex leader, no, del movimentismo di sinistra degli anni 70, l'ho seguito in Italia per molti giorni. Era una sorta di convivenza per fare un diario, per Panorama, insomma abbiamo scritto. Perché dico questo? Perché nelle varie manifestazioni alle quali ho partecipato come ombra di Oreste Scalzone, come giornalista ombra di Oreste Scalzone, ho potuto verificare come lo stesso uno fosse un punto di riferimento anche per i giovanissimi di quell'ala dell'estrema sinistra, no? Ma non solo, ma come nelle manifestazioni ci fosse una contiguità non solo ideologica ma anche fisica tra ex appartenenti, cioè lui mi presentava ex appartenenti di prima linea delle Brigate Rosse che erano nelle manifestazioni, per esempio a Vicenza contro la base Dal Molino. Esatto, quindi c'è una contiguità, c'è un tessuto che nulla a che vedere con nulla a che vedere con il Duomo lanciato in faccia al Presidente del Consiglio. Eccoci tornati qui in studio, ci stiamo occupando degli arresti avvenuti ieri nel filone di Brigate Rosse per il comunismo. Abbiamo ricordato i rapporti non molto buoni rispetto a Brigate Rosse, partito comunista combattente responsabile dei delitti contro i grandi giuristi del lavoro D'Antona e Biagi, e stiamo tentando di capire quanto questa matrice autoattribuita, una specie di brand di riferimento obbligato, sia in continuità. La tesi della continuità mi pare prevalga sia l'intervento di Manconi. Avevamo interrotto Gianluigi Nuzzi che ci ricordava del proprio, come avendo svolto suo mestiere giornalista e accompagnando quindi in Italia Oreste Scalzone, la vedesse ictuoculi, le toccasse con mano la continuità, dicevi, no? Sì, c'è una continuità, e quindi, tornando alla tua domanda sulla persona, su Manolo è nato, voglio dire, nel suo pannolino quando aveva pochi mesi e sono finiti i soldi della rapina che ha fatto il padre con Moretti in una banca a Pergine in Valsugana vicino a Trento. Quindi lui certamente viene a sei zii, cinque sei zii, tutti brigatisti, al padre brigatista, quindi viene sicuramente da un ambiente familiare intriso di lotta armata, di ideologia, però non sono dei casi isolati, ecco, perché c'è una tradizione che si autoriproduce, trova consenso. Non sappiamo queste armi da dove arrivano, non sappiamo, solo per parlare delle armi, se queste armi sono già state usate da chi, non sappiamo a chi possono far comodo questi signori che vanno in giro per l'Italia con una teorizzando delle cose che ai più sembrano ormai antistoriche, sembrano dei pezzi di archeologia politica, dei pezzi di archeologia dell'antagonismo, no? Però così non è, perché io dico, ripeto, l'esperienza di Scalzone mi ha dato proprio. Cioè, io pensavo che fossero cose ormai superate, mi sono sbagliato. Cioè, tu vai in questi centri e c'è una teorizzazione della guerriglia, una teorizzazione della lotta, anche della lotta armata, non con Scalzone, ma in altri segmenti, tutti in quella zona grigia sulla quale gli inquirenti, qui è ragione te, direttore. Cioè, un'altra cosa è che rispetto agli ultimi omicidi, quando ci sono stati gli ultimissimi omicidi attribuiti a questi gruppi, noi avevamo degli organi investigativi ormai in disarmo, quindi parlo in termini di polizia che andava a indagare, i carabinieri che andassero a indagare con una specializzazione sul terrorismo. Perché parlare, scrivere e comprendere linguaggi strategie dei gruppi terroristici, bisogna avere una cultura, che è una cultura che è come il vecchio maresciallo che nel paese conosce tutti. Tu non puoi prendere un ragazzino di 30 anni che fa l'appuntato, che quando hanno ammazzato Moro forse manco era nato, ecco. E quindi noi ci siamo, lo Stato secondo me si è trovato in certi momenti come preso in contropiede, pensava che un periodo fosse finito, mentre in quelle zone che non hanno più, chiarissimo, un ultimo pensiero, che non hanno più una rappresentanza parlamentare, cioè la sinistra radicale non siede più in Parlamento, che non ha più una, che nulla ha a che vedere col terrorismo, per carità, non fraintendetemi, però quelle posizioni, le posizioni più radicali della nostra politica di sinistra, che possono magari servire da cuscinetto, no? su chi si trova in un momento di disorientamento, ecco, quelli non hanno più rappresentanza politica ed è un fatto secondo me molto grave. Allora, io però torno a chiedere anche a Daniele Biachessi, perché anche a lui pongo la stessa domanda. Se paragono i livelli di attività e gli obiettivi delle Brigate Rosse e PCC, arrivati a condanna definitiva in Cassazione per gli omicidi d'Antona, con invece le richieste, gli atti di indagine e gli atti giudiziari che hanno portato alle richieste della Boccassini a marzo per i 17 componenti del cosiddetto Partito Comunista Politico Militare, quello sgominato dai magistrati e dagli inquirenti tra Padova, Milano e Torino nel 2007, e paragono a questi due blocchi di brand veri o pseudo Brigate Rosse, ciò che si legge, che è trapelato nei documenti sequestrati nel giugno scorso al Fallica, cioè il capo, a questo corniciaio romano, capo di questo BR alle quale appartengono poi il Manolo Morlacchi arrestato ieri. Vedo che gli obiettivi sono diversi, perché qui si parla di, hanno tentato un attentato alla caserma Vannucci di Livorno nel 2006, pensavano a un attentato alla Maddalena, ci si spostano sulla politica estera, per carità di Dio, però mi sembra che qui si tratta di un gruppo, quello a cui apparterebbe il Morlacchi, di una decina, 11, massimo 12 persone disseminate in mezza Italia. Mi chiedo, e chiedo a te Daniele, anche tu hai l'impressione che la continuità di questa matrice debba comunque prevalere, sia giusto così, non si tratti di fenomeni di qualcuno che sia pur appropriandosi di un brand, tenta con questo brand di farsi molto più grande e pericoloso di quanto in realtà non sia. Certo, ci sono le armi. mia, non è che uno può dire di no, però voglio dire, i manuali per mascherarsi in internet che oggi finiscono per campeggiare nei titoli, beh, quelli ce ne sono a migliaia su internet, non è che se uno fa rimbalzare in rete cose di quel genere è un terrorista. Domanda provocatoria apposta, Daniele, il tuo punto di vista. Ma innanzitutto diciamo alcune cose, alcuni dati che servono anche un po' per capire. Dunque, l'ultimo omicidio diciamo della stagione del Partito Comunista Combattente, 1988, Roberto Ruffilli, poi ci sono gli anni dello smantellamento, no, degli apparati dell'antiterrorismo, perché c'erano altre emergenze. Ricordo per esempio le stragi di Capaci, le stragi 92 e del 93, quelle di Via del Georgofili, per cui gli apparati dello Stato diciamo guardano verso un'altra direzione. E poi lo stupore, tra virgolette, nel 99 con l'omicidio di Massimo D'Antona e poi quello di Marco Biagi. Io ricordo che dal 69 ad oggi sono stati diciamo processati e condannati circa 4.000 persone per 131 morti e 2.000 feriti. In questo ci metto dentro tutti, cioè dal 69 ad oggi, questi sono i dati statistici, poi ci sono circa un 20.000 persone che sono state indagate, poi sono uscite dai processi. Per quanto riguarda queste ultime cose, mettendoci dentro le tre cosiddette posizioni, la prima BRPCC, la seconda quella dell'inchiesta del 2007 con di Salvini e Boccassini, la terza a questo punto con le ultime indagini, siamo intorno già oggi ad un'ottantina di arresti e di persone arrestate. Nulla a che vedere naturalmente con i numeri degli anni 70, però la continuità secondo me sta certamente nelle BRPCC anni 70, e questa continuità non è la classe operaia, non so, questa continuità si chiama riformismo. Negli anni 70 le BR colpivano Moro, quindi la politica di compromesso di CPC, poi colpivano la giustizia tra BR e Prima Linea, Bachelet, Galli, Alessandrini, la giustizia, i riformisti che tentavano di compiere delle riforme importanti sulla giustizia. Negli anni 80 cominciano a colpire alcuni giuslavoristi importanti, feriscono Zugni, Tarantelli, ucciso, ma anche i riformisti delle riforme istituzionali come Roberto Ruffilli. Ruffilli, ecco. Però Ruffilli è uno dei punti di snodo importanti, perché lì viene assassinato un personaggio le cui idee, giuste o sbagliate, comunque sono ancora al vaglio, credo, della politica in questi giorni, no? E si arriva alla fine ancora nuovamente con i giuslavoristi. È vero quello che dici quando affermi che alcuni di questi ultimi, soprattutto gli ultimi arresti, avevano altri obiettivi, ma non dimentichiamo che secondo gli investigatori quelli della seconda posizione, cioè quelli arrestati nel 2007, avrebbero voluto organizzare o dovuto organizzare un attentato nei confronti di Pietro Ichino. Quindi in qualche modo c'è una continuità e una discontinuità, perché secondo me le BRPCC sono il classico partito organizzazione, mentre le altre strutture sono più tra virgolette movimentiste, e quindi all'interno diciamo di un mondo più ampio, il movimentista in quanto, per esempio, non so, alcuni degli obiettivi della cosiddetta seconda posizione era ferire un dirigente responsabile delle vicende di amianto, per poi cioè magari andare tra virgolette a capitalizzare un molto minimo successo politico su questo tipo di azione. Ma stiamo parlando di cose che sono mutuate dal passato, insomma, certamente. Certamente, grazie Daniele. Allora abbiamo con noi Piero Sansonetti, direttore della settimana degli altri, molto lo ringrazio. Buongiorno Piero. Buongiorno. Allora, hai sentito che negli ultimi minuti c'è chi ha fatto far capolino a l'ombra del fatto che nei centri sociali, nel movimento sociale di matrice, di chiara opposizione comunista e così via, non più tutelato dal diritto di tribuna, cioè dalla presenza parlamentare e così via, figure come questa di Manolo Morlacchi, in qualche maniera che incarnano una tradizione, adesso io uso un aggettivo sicuro che chi a casa mi equivocherà, io dico anche romantica, per così dire, ci sono tradizioni romantiche anche nella lotta armata e non significa dimenticare tutto il sangue versato, io su questo proprio... Però la domanda che ti faccio, c'è questa possibilità di contiguità, questo fatto che a qualche generazione, a pezzi di generazione che anima le lotte sociali contro l'Almolino e così via, figure come quella di Manolo Morlacchi gli facciano venire in mente davvero di entrare nel brand autoattribuito Brigate Rosse? Ma dunque, innanzitutto mi pare di capire che questi Morlacchi e questi altri sono stati arrestati, non ancora condannati in Cassazione. Esatto. Bisognerebbe, anche per loro, diciamo, vale l'idea che bisognerebbe avere qualche accertamento. Per ora mi pare che gli hanno sequestrato alcune cose da un PC su come non farsi scoprire, su come criptare i messaggi. E, insomma, da qui a ammazzare la gente, comunque c'è un... bisognerebbe provare alcuni passaggi successivi. Si parla di sequestro d'armi, ma stiamo parlando di sequestri d'armi avvenuti in altri luoghi ad altre persone alcuni mesi fa. Esatto. Si pare che nella casa di questi ragazzi, di queste persone, sono state trovate delle armi, no? Quindi sarebbe carino, diciamo, discutere tenendo presente che sono stati arrestati. Piero, hai fatto la stessa premessa che ho fatto anch'io, perché io mi metto in posizione dubitante oggi. Eccoci tornati in studio, avevo interrotto Piero Sansonetti che aveva appena ricordato a noi tutti come gli arrestati di ieri non avevano né armi né cose, stiamo parlando per il momento di documenti, intercettazioni, di vedersi per incontri, riunioni e così via. Dicevi Piero? No, quindi innanzitutto questo, per cui può darsi che stiamo parlando, diciamo, senza spunto, poi si può parlare sempre naturalmente del problema del terrorismo, ma non è detto che lo spunto sia quello giusto, è successo anche in passato varie volte, perché che la magistratura ha arrestato e poi non c'era niente, non risultavano, quindi partirei innanzitutto dalla presunzione di innocenza e non credo che il fatto che la sinistra sia uscita dal Parlamento comporti rischi di terrorismo e alcuni accostamenti mi sembrano un po' forti. Oreste Scalzone lo conosco bene, diciamo, proprio non c'entra, non c'è nulla di più lontano, non, anche nel suo pensiero, nelle cose che scrive, nelle cose che dice, proprio non c'è nulla di più lontano. Dovremmo stare un po' attenti, perché se no il rischio è quello di fare un disastro. Io non è che posso escludere che a un certo è chiaro che non c'è nessuna possibilità di paragone fra quello che sono stati gli anni di piombo e questi anni qui, no? I pericoli per l'inquinamento della lotta politica, per la violenza, eccetera, certo non vengono da un movimento di lotta armata organizzato, non so se vi ricordate che cos'era. Teniamo conto che fra l'altro sono state date delle cifre che erano cifre a ribasso, mi pare che 113 morti, è stato detto che sono i morti delle Brigate Rosse, poi ci furono i morti per le stragi, che furono ancora di più. Credo alla fine si arrivi ai 1000 morti contro quelli di destra, quelli di sinistra e quelli di Stato, diciamo così, perché c'erano tre entità che combattevano questa guerra, parliamo di 1000 morti, decine di migliaia di feriti, e, attenzione, non mi pare proprio, cioè non mi pare che siamo distanti anni luce, abbiamo questa cosa preoccupantissima che non si può cancellare del fatto che alla fine degli anni 90 e all'inizio del 2000 ci sono stati altri due episodi tragicissimi di terrorismo con l'uccisione di D'Antona e Biagi. Ma io ti rifaccio allora la domanda, in quel mondo della protesta sociale diffusa, leggere giornali in cui vengono riportate opinioni dei giudici, quelli che conducono le indagini e che poi controfirmano gli arresti di questi giorni, che dicono se non li formiamo prima a livello delle intenzioni, farebbero lo stesso tipo di parabola di coloro che hanno ucciso Biagi e D'Antona. Questo tipo di parole, secondo te, in quel mondo come viene letto? Come una persecuzione prima di che vengano commessi i reati? Ma non in quel mondo, in un mondo liberale, diciamo, queste parole sono molto preoccupanti. Il fatto che si voglia colpire non si sa che cosa, al momento dell'intenzione, io non ti sto a dire adesso che intenzioni c'ho io stamattina, ma potrei temere delle incursioni della polizia in casa mia. Ma è preoccupante, è questo, mi pare. Ma, se, cioè, in presenza di nessun allarme sociale, peraltro, io ritengo che furono un danno anche le leggi di emergenza che furono fatte all'epoca, sia quelle contro il terrorismo sia quella contro la mafia, perché comunque intaccano, indeboliscono lo Stato di diritto. Poi però in quel caso, diciamo, qualcuno mi dice: vabbè, ma allora sei un pazzo, non capisci quale emergenza ci fosse, come si faceva a non rinunciare un po' pezzettino di Stato di diritto. Sono tra quelle, io non concordo, sì. Ma diciamo capisco questo ragionamento. Oggi dirmi che si può intaccare un po' di Stato di diritto per fronteggiare il terrorismo mi sembra un'enormità. Bene, anche a me mi sembra un'enormità. Allora, secondo giro rapidissimo, Manconi, secondo lei corriamo il rischio di essere troppo allarmati dopo aver smantellato nella fine degli anni 80 inizio anni 90 l'attenzione degli organi inquirenti sul terrorismo interno e adesso siamo diventati ipersensibili? Lei che pensa? Penso che tutti i sistemi democratici, proprio perché democratici, corrono il rischio che piccoli gruppi di uomini armati possano compiere attentati sanguinari. E che la differenza incolmabile, insuperabile, quella che davvero conta rispetto agli anni 70, è che in quegli anni c'era un'area di simpatia, comunque di non ostilità, comunque in qualche misura di connivenza, che oggi non esiste in alcun modo. Qui posso portare la testimonianza dei responsabili di servizi italiani che in più circostanze istituzionali anche, hanno sempre dichiarato che l'attività di coloro che oggi perseguono la lotta armata è un'attività che opera in un isolamento incondizionato, al punto che quelli che in genere vengono indicati come gli ambienti di simpatia, i centri sociali, sono stati ripetutamente assolti dagli stessi responsabili dei servizi. Possono esserci degli atteggiamenti di curiosità, interesse, in qualche caso singolo e isolato anche di complicità, ma non esiste un'area solidale. Ecco, grazie Manconi, ma se non esiste un'area solidale, Gianluigi Nuzzi, esiste poi il rischio che qualcuno politicamente ci speculi? Diciamocelo chiaramente, è una domanda che da giornalisti ci dobbiamo porre, la tua risposta qual è? Io lo replicherei un attimo a Sassonetti, perché sembra che stiamo parlando di terrorismo così, scendendo la luna con le bratelle appese alle nuvole. No, io credo che ci siano delle indagini, sicuramente non sappiamo se questi signori sono colpevoli o non colpevoli, ma al di là di questo ci sono dei signori che presso le cui abitazioni o pertinenze sono state trovate delle armi, no? Sono state trovate dei materiali ideologici, ecco. Quindi non è che stiamo parlando di terrorismo così avulso, perché stamattina Giannina non sapeva di cosa parlare. Questa è la prima banale osservazione. La seconda è su Scalzone, che lui nelle interviste, nelle chiacchierate, non escludeva la lotta armata, al di là della sua figura ampiamente romantica, per tornare al termine che ho detto a te. Sulla tua osservazione la condivido, cioè bisogna stare attenti ovviamente a non fare della paura una merce di scambio politico, no? Non bisogna terrorizzare le persone, siamo presenti di fronte ad alcune frange che è vero, quando dice Sansonetti che hanno a vedere con i gruppi in termini di numerici, di organizzazione, di consenso di una volta, di infiltrazione negli apparati e quant'altro, però non bisogna nemmeno, secondo me, minimizzare. Benissimo. Biachessi, nella tua sensazione, avendo seguito in questi ultimi anni, c'è qualche sia pur tenue segnale di riattivazione di collegamenti internazionali sul terrorismo di matrice domestica italiana? Cioè, in tutto quello che è successo al terrorismo mondiale dall'11 settembre in poi e così via, questi gruppetti di alcune decine che vengono poi individuati e smantellati hanno qualcosa a che fare? No, non è emerso da nessuna indagine. Volevo soltanto dirti che, secondo me, negli anni 70 il terrorismo ha rappresentato certamente un serio pericolo per la democrazia. Lotta armata 131 morti, stagione stragista circa 800 morti, più migliaia di feriti. Oggi naturalmente non rappresenta, non può rappresentare un pericolo per la democrazia, anche dal punto di vista operativo. La stessa Cinzia Banelli disse che se Marco Biagi avesse avuto la scorta probabilmente non l'avrebbero ucciso, non l'avrebbero colpito. Però diciamo, il vero pericolo è per singole persone. Quindi il terrorismo oggi può ancora ricolpire, anche perché diciamo, questo non lo dico io, ma diciamo, mancano ancora l'appello anche nella stessa indagine su D'Antone Biagi, alcuni personaggi importanti che hanno avuto un ruolo importante anche in quell'omicidio. Quindi certamente gli investigatori hanno lavorato, stanno lavorando e sanno che potrebbero colpire, ma potrebbero colpire chi? Potrebbero colpire ancora purtroppo giuslavoristi o piuttosto che riformisti, cioè gli stessi obiettivi di un tempo con un altro tipo di situazione operativa. E quindi fanno bene ad andare avanti. Oggi volevo invitare in trasmissione uno dei due firmatari su un sito che io guardo sempre, si chiama www.brigaterosse.org, è un organo di controinformazione molto ben fatto, molto approfondito su tutte queste indagini, e due autori di un documento uscito qualche tempo fa, Giuseppe Bucca e Gilberto Mastromatteo, che diceva appunto Brigate Rosse è un brand per tutte le stagioni, un documento molto critico verso i giornalisti che buttano sempre Brigate Rosse come slogan per fare titoli, non è caso. Non sono voluti venire in trasmissione, nessuno dei due, me ne dispiace molto. Piero Sansonetti, hai 30 secondi alla fine per dire anche te, dal tuo punto di vista, cosa possiamo fare noi giornalisti per evitare confusioni su questo? Ma io innanzitutto, diciamo, sottoscrivo dalla A alla Z quello che ha detto Manconi, non è che c'è molto da aggiungere, mi pare che quello è il ragionamento. I giornalisti farebbero bene a tenere presente questo ragionamento, ma io, sai, sono uno di quelli che non ha una grande stima del giornalismo italiano, non mi aspetto molto aiuto nella crescita della civiltà dall'attuale giornalismo italiano. Poi paio di cose di precisazione: non mi pare che a casa di Morlacchi siano state trovate armi, quindi no. Non è che possiamo... Le armi sono quelle a giugno, sequestrate. Allora, bisogna che si capisca, perché dice gli hanno trovato le armi. No, non gli hanno trovato le armi, se no non sarebbe una cosa diversa, ma non gliele hanno trovate. E così escludo categoricamente che esista un'intervista in cui Scalzone invoca la lotta armata, proprio lo escludo categoricamente, per cui magari partire dai fatti già il giornalismo aiuterebbe molto. Va bene, allora vedremo lo sviluppo in futuro anche di questi arresti e di queste indagini. Avrete capito che il nostro era uno spirito autocritico innanzitutto verso il mestiere che dobbiamo fare, informarvi senza darvi confusi pasticci, soprattutto quando si tratta di matrici così sanguinose e di pezzi che hanno spaccato il paese terrorizzando intere generazioni. Rispetto a quei tempi forse il fenomeno è naturalmente più contenuto, però comunque viva gli inquirenti che fanno il loro mestiere. Ringrazio in regia, oltre agli ospiti che abbiamo avuto, ringrazio in regia Carmelo Lauricelli e Valerio Rocchetti, in redazione Alessandro Marco Tulli. La linea al giornale radio, appuntamento a domani.